Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se vogliamo convivere con il Covid, tenendo aperte attività economiche, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. La mascherina va indossata sempre quando si è fuori. Se nei prossimi 3-4 giorni la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere, si aggrava, chiuderemo tutto. Mi sembra più che perentorio l'annuncio del presidente della regione Campania De Luca, credo che non ci siano equivoci, ne parleremo di questo con il sindaco della città, ovviamente più importante della Campania, che è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. E in effetti la situazione, insomma, diciamo, nei paesi intorno a noi in Europa è piuttosto seria. In Spagna come in Francia, oggi nelle ultime ore, in un giorno 15.800 nuovi contagi. In Italia noi siamo stati lodati anche dall'OMS, però ci invita anche naturalmente, come si usa dire ormai da tempo, a non abbassare la guardia. Fra l'altro, notizia di poco fa che un altro comune in Sardegna è in lockdown, ma completo questa volta, dopo Orune. Adesso questo paese nuovo della Sardegna, Ido Maggiore, in provincia di Oristano, si chiude il lockdown, stavolta appunto lo stop è totale, tanto che da domani e sino al 2 ottobre compreso i cittadini potranno uscire solo per motivi di estrema necessità e urgenza, quindi insomma le questioni sono serie. E poi ci soffermeremo ovviamente su quello che è successo a Parigi, questo attacco, un attentato islamista, ha detto pochi istanti fa il ministro dell'Interno. Ci collegheremo con Parigi sia per questo, soprattutto per questo nuovo attentato, ci mancava tra l'altro appunto con una Parigi che già è alle prese con queste crescite esponenziali di coronavirus. Poi molte altre cose per questa ultima puntata della settimana e per i vostri commenti, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i WhatsApp è sempre 349-238-6666, 349-238-6666, allacciate le cinture che si parte. Attacco a Parigi, 4 feriti vicino alla sede di Charlie Hebdo, in stato di fermo 7 uomini. L'autore, un 18enne pakistano, ha ammesso le responsabilità. Il ministro dell'Interno parla di attacco islamista e parla di altri 5 fermi. Il coronavirus in Italia, oltre 1.900 contagi, il record post lockdown. Il presidente della Campania De Luca minaccia di chiudere tutto se salgono i contagi. A Effetto Notte ci sarà il sindaco di Napoli De Magistris. E per la scuola, nuova ordinanza del ministro Speranza, certificato e doppio tampone per rientrare dopo la malattia. Coronavirus nel mondo, in Francia in un giorno 15.800 nuovi casi, l'allarme dell'OMS, probabili nel mondo 2 milioni di morti se non agiamo. Vaticano, il cardinale Becciu e i soldi ai fratelli, accuse surreali è la difesa, fino a ieri amico del Papa. Caso Suarez, il PM Cantone sospende l'indagine dopo la fuga di notizie, violazione dice del segreto istruttorio. Ciclismo, ai mondiali di Imola, Ganna vince il titolo mondiale nella cronometro. Spazio, accordo fra Italia e Stati Uniti sul programma Artemis per l'esplorazione della Luna. Partiamo quindi dall'attacco a Parigi. Si tratta chiaramente di un atto di terrorismo islamista. È un nuovo sanguinoso attacco che torna nel nostro paese contro dei giornalisti. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gérard Darmanin commentando l'attentato di oggi davanti all'ex redazione del giornale Charlie Hebdo. Intanto, secondo quanto si apprende da fonti degli inquirenti, altre 5 persone sono state fermate, vengono interrogate questa sera insieme ad Ali, il 18enne pakistano autore dell'attentato, e del presunto complice algerino. Poi ci collegheremo appunto con Parigi per avere tutti i dettagli che si hanno sinora. E la Francia continua a avere anche una crescita allarmante di contagi. Nella giornata di oggi si contano infatti 15.800 nuovi casi. Intanto l'OMS lancia l'allarme evocando il rischio che si arrivi a 2 milioni di morti per la pandemia. Abbiamo perso 1 milione di persone in 9 mesi, potrebbero volerci altri 9 mesi prima di avere il vaccino, ha detto il direttore per le emergenze Michael Ryan rispondendo a una domanda nella conferenza stampa sul coronavirus. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare quella cifra, dice, il momento di agire è adesso, altrimenti guarderemo a quel numero e purtroppo a uno molto più alto. E il coronavirus in Italia, crescono i contagi, ma regge il sistema sanitario. Per la scuola però norme più stringenti per il rientro in aula a 2 settimane dall'avvio, e parla anche Conte. In lieve salita i contagi in Italia, 1912, circa 100 in più di ieri, con oltre 107.000 tamponi, 800 in meno. Le terapie intensive calano di 2 unità, ora in totale sono 244. I decessi sono 20, 3 in meno di ieri. E dal report settimanale sul 14-20 settembre di Ministero Istituto Superiore di Sanità emerge un aumento dei casi per l'ottava settimana, con numerosi focolai di origine intrafamiliare e un aumento dal 2 al 3% del tasso di occupazione delle terapie intensive, con punte superiori al 10 in alcune regioni, ma l'età media dei contagiati resta stabile. Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Per fortuna questa settimana non cresce l'età mediana alla diagnosi, che si ferma intorno ai 41 anni, e questo spiega perché il numero di ospedalizzazioni, sebbene tenda ad aumentare, lo fa molto molto lentamente. E dopo l'ordinanza campana, anche in Calabria la mascherina diventa obbligatoria anche all'aperto fino al 7 ottobre, e il Ministero della Salute riassume le linee guida per le scuole in caso di positività. Per il rientro in comunità, si legge nella circolare, bisognerà effettuare 2 tamponi a distanza di 24 ore con un doppio esito negativo, e servirà il certificato di avvenuta guarigione. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ne parleremo nel corso di questa puntata delle nuove linee guida per la scuola con il presidente dei presidi Giannelli. Intanto il presidente della Campania, l'avete sentito, De Luca, minaccia di chiudere tutto se salgono i contagi e non vengono rispettate le regole. Effetto note, ne parlerò col sindaco di Napoli, De Magistris. La Svizzera nel frattempo ha incluso la Liguria, insieme a Gran Bretagna, Portogallo, Belgio, nell'elenco degli stati e regioni a rischio elevato di contagio da coronavirus. La nuova lista entrerà in vigore lunedì 28 settembre. Chi entra in Svizzera da uno dei paesi e regioni nell'elenco dovrà passare 10 giorni in quarantena. La Liguria ha chiesto in serata alla Svizzera che torni su questa decisione. A proposito di decisioni, per quanto riguarda il mondo del calcio, stop con i tamponi a ripetizione su calciatori e componenti degli staff delle squadre. Dopo tanta insistenza, il mondo del calcio ha ottenuto un allentamento delle norme rigide di sicurezza previste per la pandemia, con il via libera stasera da parte del Comitato Tecnico Scientifico alla proposta di sottoporre gli atleti ai test anti-Covid-19 solo nelle 48 ore precedenti i match. L'annuncio è stato dato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Siamo alla politica, a cominciare dall'alta tensione nel Movimento 5 Stelle. Il tutto contro tutti nei 5 Stelle prefigura già le prime dimissioni, quelle di Barbara Lezzi, ex ministra e senatrice, esposta in campagna elettorale per Antonella Laricchia, candidata a 5 Stelle in Puglia, poi sconfitta da Emiliano. Lezzi si prende una pausa dalla chat, non vuole notifiche sul display. Intanto il reggente Vito Crimi rimanda la nuova organizzazione all'assemblea degli iscritti. Ma il pressing del PD è forte sulla legge elettorale, sul MES, sul nuovo meccanismo di voto. Le divergenze sono sulla soglia di sbarramento troppo alta per Italia Viva e l'EU e sulle preferenze chieste dai 5 Stelle. Nel centrodestra la questione è la leadership della Lega. Matteo Salvini si dichiara contento del successo di Luca Zaia in Veneto e non si sente scavalcato, così a 24 Mattino. Governiamo ad oggi, sì, 14 regioni su 20. Sì. Con la Lega primo partito in Italia. Senta, si può far meglio, però diciamo, sì, che sono abbastanza soddisfatto. E sul proporzionale, mentre nella Lega Giancarlo Giorgetti parla di disastro, Salvini ribadisce il no, ma dice non è un'emergenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In arrivo il piano cashless del governo, rimborsi fino a 3.000 euro, l'avevo anticipato ieri proprio a finire della puntata di Effetto Note, per i pagamenti con carta e concorso a premi. Rimborsi super premi e lotteria degli scontrini per chi usa i pagamenti elettronici è quanto prevede il piano allo studio del governo per incentivare l'uso delle carte. Il progetto punta al rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con moneta elettronica. Il massimale di spesa previsto è di 3.000 euro con un cashback non superiore ai 300 euro, ma il rimborso potrebbe essere anche più alto nel caso in cui non tutti i partecipanti raggiungessero il massimale dei 3.000 euro di spesa. E per i virtuosi che usano la carta per fare qualsiasi acquisto, il piano del governo stanzia un premio di 3.000 euro per i primi 100.000 cittadini che avranno effettuato il maggior numero di transizioni con carte elettroniche. Il governo intende anche utilizzare 50 milioni di euro per la lotteria degli scontrini. In alcuni casi, i singoli premi potranno arrivare anche a 5 milioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di meteo, prosegue l'ondata di maltempo su mezza Italia, è stato trovato morto il runner disperso ieri a Luvinate in provincia di Varese travolto dal torrente, e allerta in Valtellina e Valchiavenna. Prima neve in Piemonte e poi due anziani rimasti intrappolati nell'abitazione invasa da fango e detriti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco nella zona di Varese. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla città di Salerno mentre una pioggia torrenziale ha messo per qualche ora in ginocchio il traffico di Napoli. L'indagine sul calciatore Suarez. La Procura di Perugia decide di bloccare da oggi a tempo indeterminato tutte le attività di indagine sulla vicenda dell'esame d'italiano per il calciatore Luis Suarez. Lo ha detto il procuratore capo Raffaele Cantone, che spiega come la decisione sia legata alle ripetute violazioni del segreto istruttorio. All'estero adesso, negli Stati Uniti, crescono al Pentagono i timori che il presidente Trump possa ricorrere alle forze armate contro eventuali disordini nelle elezioni dopo che non si è impegnato ad una transizione pacifica del potere, ma diversi ufficiali della difesa hanno riferito che una tale mossa porterebbe alle dimissioni di molti dei più alti generali in capo, a partire da Mark Milley, capo di Stato Maggiore. Lo scrive il New York Times. E ora parliamo invece di Monsignor Angelo Becciu, che ieri ha rinunciato alla carica di prefetto della Congregazione per le cause dei santi e ai diritti legati al cardinalato su ordine del Papa. Oggi ha convocato una conferenza stampa per difendersi dalle accuse che definisce surreali. Sono pronto a chiarire, dice, anche se i PM non mi hanno ancora chiamato. Il nome di Becciu è stato tirato in ballo nell'affare dell'immobile di Londra e per le commesse ottenute da una SRL specializzata in infissi riconducibile al fratello Tonino di Orzieri in Sardegna, che oggi ha detto riceverete un comunicato dei nostri avvocati. E parliamo di Luna. C'è un accordo fra Italia e Stati Uniti sul programma Artemis per l'esplorazione della Luna. La dichiarazione di intenti è stata firmata oggi a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, in collegamento con l'amministratore capo della NASA, Jim Bridenstine. L'Italia è il primo paese europeo a firmare con gli Stati Uniti un accordo bilaterale sull'esplorazione lunare. Per ritornare sulla terra, lo sport, ciclismo, Filippo Ganna ha conquistato il titolo mondiale della cronometro su strada di ciclismo disputata oggi a Imola. Il piemontese, il primo azzurro a trionfare in questa prova iridata, che si disputò per la prima volta nel 1994 a Catania. Detto questo, chiudo questa prima parte della puntata, la sintesi della giornata, tra poco quindi gli approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri messaggi, WhatsApp 349-238-6666, se no c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi. Adesso cominciamo quindi ad approfondire alcuni temi in primo piano con gli ospiti. C'è per esempio questo ascoltatore che dice, a proposito dei timori del Pentagono americano che Trump possa ricorrere alla forza in caso di disordini durante le elezioni, cioè all'esercito, dice: stiamo pure tranquilli, i militari americani, il gran Trump li asfalta tutti, anche stavolta sti radical chic nulla facenti, Giacomo eccetera eccetera. È grande intenditore evidentemente di politica americana. Vedremo quello che succede, manca praticamente pochissimo più di un mese alle elezioni americane, che sarà molto interessante seguire. Poi invece c'è chi dice, evidentemente c'è qualcuno che continua a vivere nell'iperuranio, perché dice questo ascoltatore: in Italia ogni giorno si suicidano una media di 10 persone, sarebbe interessante avere il dato quotidiano. C'è qualcuno che ancora, dopo i mesi tragici che abbiamo passato e dopo che in Europa e nel mondo continuano a essere tragici numeri e noi li stiamo contenendo, ma insomma bisogna porre molta attenzione, ancora non ha capito cosa è successo. Da noi più di 36.000 morti, nel mondo c'è il rischio, dopo un milione di morti, l'OMS ha già detto anche di due, è bastato respirare per ammalarsi in questo modo. Non so se l'ascoltatore è in grado di capire che è un fenomeno molto particolare, un virus, una pandemia che si espande con estrema facilità. È bastato appunto in quei mesi in cui siamo stati presi tutti alle spalle, semplicemente respirare magari l'alito di un altro, lo starnuto di un altro. Cioè, non riescono a capire che non si può paragonare oppure le poverissime persone che si suicidano o chi muore sotto un'auto, cioè non so, è ancora molto complicato. Comunque, insomma, non spreco altro tempo a spiegarmi, perché dobbiamo passare a cose serie. Se vogliamo convivere con il Covid tenendo aperte attività economiche, sempre in maniera attenta, dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. La mascherina va indossata sempre quando si è fuori, e sulla bocca, non sul gomito, sulla bocca e sul naso. Se nei prossimi 3-4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere leggermente, si aggrava, noi chiuderemo tutto. Non lascia spazio, quindi, abbiamo detto già all'inizio, equivoci, interpretazioni alternative, questa dichiarazione perentoria, nel suo stile, del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che dichiara appunto di essere pronto a chiudere tutto se i dati dei contagi continueranno a salire in Campania e anche appunto se, dice, non vengono rispettate le regole. Dato che si tratta di Campania, ne voglio parlare per capire com'è la situazione, la città simbolo ovviamente della Campania, con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che saluto. Buonasera sindaco. Sindaco, bentornato. Buonasera, grazie. Come vanno i contagi a Napoli? Beh, ormai nell'ultimo mese abbiamo una media di una cinquantina al giorno, quindi sono tanti rispetto a prima, però con una pressione, anche se crescente, ma non veloce sugli ospedali, quindi per ora la situazione è complessivamente sotto controllo, però bisogna mantenere molto alta l'attenzione con le tre regole che non dobbiamo mai dimenticare: il distanziamento fisico, le mascherine quando necessarie e l'igiene. Senta, quindi a proposito appunto di regole, di precauzioni che lei ha rielencato, evidentemente secondo il presidente De Luca c'è un po' di anarchia, non vengono rispettate, lui dice forse anche l'1%, ma non possono rovinare poi la vita alle altre persone. Che ne pensa? Come si comportano cittadine e cittadini napoletani? Qualche secondo in più, perché io non condivido per nulla il linguaggio, il tono e le minacce di una persona che è un presidente, non può essere un tiranno e non può minacciare. Per molto tempo le persone hanno creduto che i napoletani e i campani sono stati in casa perché De Luca l'ha minacciati con lanciafiamme. Sono stati in casa perché sono persone responsabili, che credono molto nelle regole, che soprattutto vogliono tutelare la propria salute e quella dei propri cari, e sapendo come la sanità pubblica purtroppo è stata ridotta in Campania in questi anni, hanno capito che non c'erano posti letto a sufficienza e sono stati in casa. Poi il lanciafiamme l'avete visto, per un po' non si è sentito più perché stavamo in campagna elettorale. Adesso, finita la campagna elettorale, si minacciano i cittadini. Io al presidente De Luca invece chiedo una cosa: noi adesso abbiamo molti casi in Campania, eppure siamo la regione che fa meno tamponi, quindi vuol dire che ne abbiamo di più. Forse più che minacciare la chiusura totale di una regione, che è impensabile in questo momento, ci spieghi se in questi 8 mesi, con tutti i soldi che ha avuto, ha aumentato veramente i posti letto, la rete degli ambulatori, dei medici di prossimità, i dispositivi di sicurezza, i test, i tamponi e le reti di protezione sanitaria. La mascherina all'aperto H24, consentitemelo, è un'altra misura priva di senso. Che è obbligatoria da oggi, mi sembra da ieri lì in Campania, no? La mascherina, sì. La mascherina all'aperto, io sono d'accordo che deve essere obbligatoria se stai con tanta gente in un determinato luogo all'aperto, ma se io adesso alle 23 scendo da Palazzo San Giacomo, la sede del Comune, attraverso da solo Piazza Municipio, perché devo avere la mascherina, che comunque non fa bene alla salute tenerla 24 ore su 24, perché non si respira come dovremmo respirare e tutte altre cose che i medici ben sanno. Quindi qua purtroppo viene meno a un certo punto il buon senso, che quando si danno i poteri assoluti a una persona che perde il buon senso rischia di diventare il tiranno del giorno. Sindaco De Magistris, poi io invito spesso De Luca, ma sembra che non sia mai disponibile, se no almeno risponderebbe. Senta, per chiudere, sempre il presidente De Luca però si è rivolto al Ministero dell'Interno e ha detto, o almeno nelle sue dichiarazioni, ha detto: le forze dell'ordine sono scomparse nell'obbligo dei controlli. Io da oggi chiedo formalmente al Ministero dell'Interno di sapere qual è il piano di intervento delle forze dell'ordine per garantire l'attuazione delle ordinanze nazionali e regionali. Dalla prossima settimana, ha detto sempre De Luca, voglio tutte le forze dell'ordine e le polizie municipali impegnate su questo tema seriamente. Ma forse lui vorrebbe pure i poteri militari, ho detto, poi è un tema che poi attiene alla tenuta psicologica di tutti, insomma, questo è un tema che chiedesse al Ministro dell'Interno, al Capo del Governo, al Capo dello Stato, se intendono dare a De Luca anche i poteri militari. Io ripeto, credo che De Luca, che invece ha la responsabilità della sanità pubblica, debba rispondere, l'ho fatto anche pubblicamente alla vostra radio, ma lui non risponde su questo, non ci spiega perché la Campania è una delle regioni d'Italia, tra le grandi sicuramente, che fa meno tamponi. Forse è preoccupato per questo, e allora per questo che cerca di pressare molto. Però il cittadino non è l'untore, non deve essere trattato come una persona che dici se in tre giorni non diminuiscono i contagi, non è colpa del cittadino, chiudo tutto, che significa? Che chiudi le attività economiche? Che metti il collasso una regione? Che fa licenziare le persone? Insomma, io capisco che adesso c'è il delirio delle elezioni vinte grazie al Covid, però credo che in questo momento dobbiamo dimostrare di avere la testa sul collo, anche perché Napoli e la Campania, devo dire, hanno dimostrato, grazie ai cittadini, ai medici, agli infermieri, di essere stati all'altezza di questa sfida. Beh, quindi le minacce, io da sindaco almeno di Napoli le rimando al mittente. Noi abbiamo bisogno di buon senso, responsabilità, coraggio e forza e unità. Quando poi il mittente vuole rispondere, qui siamo disponibilissime, sono disponibilissima. Grazie sindaco Luigi De Magistris. Non rispondere meno a me, quindi siamo in due. Ah, beh, allora, ho poche speranze. Grazie, grazie sindaco. Buona serata, arrivederci. Grazie. Oh, e a 10 giorni, sempre rimanendo sul tema coronavirus, a 10 giorni dell'apertura ufficiale delle scuole, che dati ci sono? Qual è l'impatto che c'è stato rispetto al coronavirus? Allora, nel monitoraggio settimanale fatto dall'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute viene detto che non è possibile valutare al momento l'impatto che l'apertura delle scuole in Italia avrà sull'andamento dell'epidemia, ci vogliono ancora almeno 2 o 3 settimane per capire, e anche sottolineano Istituto e Ministero della Salute, la riapertura delle scuole rimane uno degli elementi da monitorare attentamente. E comunque pare che insomma sono più di 400 gli istituti già colpiti in Italia da almeno un caso di coronavirus, 75 sono stati chiusi. La ministra Azzolina ha detto l'anno scolastico è ripartito, ma le difficoltà non mancheranno perché la strada è ancora lunga e piena di insidie. Oggi, tra l'altro, è stata emessa un'ordinanza, una circolare, poi ci spiegherà meglio il prossimo ospite come definirla, per tornare a scuola dopo i sintomi da Covid, per rientrare a scuola, se si è risultati positivi, si dovrà ripetere un doppio tampone a distanza di 24 ore uno dall'altro. Subito va fatto il tampone in caso di sintomi sospetti a scuola, sia per gli studenti che per gli operatori scolastici, insegnanti, eccetera, e per il rientro dalla malattia servirà il doppio test in 24 ore. Lo chiedo ad Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Italiani. Bentornato, professor Giannelli. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ho spiegato bene questa circolare con doppio... Sì, assolutamente. Si tratta di una circolare in realtà molto attesa, perché si trattava di fare chiarezza, diciamo meglio, di unificare, di dare una linea comune a tutte le regioni in materia di rientro a scuola dopo una malattia iniziata in qualche modo con i sintomi Covid o simili Covid. E siccome non c'era tanta chiarezza in precedenza, ecco, diciamo, io la saluto con un certo favore, perché effettivamente fa chiarezza e quindi stabilisce sotto quali condizioni si rientra a scuola e con che tipo di certificazioni. Poi il Ministero dell'Istruzione dice anche, visto anche il peggioramento dei contagi, chiediamo ai presidi di rilevare settimanalmente la situazione negli istituti con un aggiornamento settimanale. Quindi lo state facendo, preside Giannelli? Beh, la circolare è arrivata oggi o ieri, quindi diciamo da adesso si comincerà senz'altro a farlo. È chiaro che questi monitoraggi sono necessari, sono molto utili per capire qual è l'andamento dell'epidemia. Indubbiamente si tratta di monitorare un sistema molto complesso, ricordo che gli studenti sono circa 8 milioni, quindi diciamo è necessario, come si diceva prima, seguire con attenzione qual è l'impatto della riapertura delle scuole sulla diffusione del contagio, perché le scuole sono, come dire, un sistema potenzialmente in grado di veicolarlo questo contagio. Certamente se ci atteniamo tutti, come si sta facendo, lo dico con molta serenità, alle regole, e cioè mascherina sempre, quasi sempre, distanziamento, mani pulite, disinfettate, eccetera, a reazione continua. E soprattutto stare a casa se si hanno sintomi, diciamo, se si ha febbre o sintomi di un certo tipo. Ecco, se si seguono queste regole, nonostante il sistema potenzialmente sia a rischio elevato, la situazione può essere contenuta. Certo, con 8 milioni di studenti è evidente che avere 400 casi, come dire, niente, perché le 400 segnalazioni di cui si faceva appunto erano magari uno studente soltanto a scuola. Non abbiamo in questo momento segnalazioni di centinaia o di decine di studenti, sono casi isolati che peraltro non è detto che siano stati contagiati a scuola, anzi presumibilmente non lo sono stati. Bene, tra l'altro, professor Giannelli, in alcune scuole so che si cominciano a provare i test ad alunni e docenti, vedevo che è successo ad Anguillara, comune alle porte di Roma, e Speranza, il ministro della Salute, ha annunciato che nei giorni scorsi che i test rapidi per l'individuazione dei positivi arriveranno a breve nelle scuole. Si aspettano con ansia, no, questi test rapidi, perché sarebbero molto utili, diciamo, no, avendo tempi stretti. Assolutamente sì, d'altronde non dobbiamo dimenticarci che questa epidemia, questo virus è relativamente poco conosciuto, è insorto da meno di un anno, ci stanno prendendo ancora le contromisure. Quindi riuscire a scoprire dei test che in pochissimo tempo dicano quali sono le condizioni di salute effettive è fondamentale. Finora con i tamponi si deve comunque aspettare uno o due giorni, quindi è chiaro che non consentono una risposta, come dire, in tempo reale. Invece quando si riuscirà a disporre di questi nuovi sistemi sarà veramente un passo in avanti notevole. Professore Giannelli, prima di chiudere, sa di questa polemica che ha creato un libro di testo per la seconda elementare, ha suscitato molte polemiche per una frase pubblicato dal gruppo editoriale Raffaello di Monte San Vito vicino Ancona, in cui c'era una frase che è stata appunto attaccata e accusata di razzismo, in cui questa frase dice: io vuole imparare italiano bene, ed è corredata dall'immagine disegnata di un bambino dalla pelle scura. Molte polemiche, molte accuse di razzismo. Poi in serata il gruppo editoriale ha detto: abbiamo già provveduto a modificare la pagina, subito disponibile per chi utilizza il testo in quest'anno scolastico. Ci scusiamo se qualcuno, insomma, si è sentito ferito da questo messaggio. Come commenta? Sì, guardi, allora, fermo restando che l'attenzione deve essere massima a comportarsi in un modo che non escluda o che non faccia sentire nessuno escluso, io credo che a volte le polemiche sorgano in modo un po' pretestuoso. Adesso non posso pensare che l'editore, l'autore del testo volessero in qualche modo stigmatizzare la condizione di minor conoscenza della lingua italiana di chi non la conosce. Insomma, non era questo evidentemente lo scopo. Comunque ha fatto bene l'editore a prendere le distanze e a disporre un'immediata sostituzione, perché non bisogna dare adito a nessun spunto, diciamo, di razzismo o anche che possa essere in qualche modo visto come razzismo. Quindi credo che sia una conclusione tutto sommato positiva. Professor Giannelli, la volevo lasciare, ma arrivano tanti messaggi, almeno le leggo questo. Chiede Gian: 75 scuole già chiuse per coronavirus, potete spiegarvi meglio? Rispetto ai dati che davo prima, 400 gli istituti in cui c'è stato almeno un caso di coronavirus, 75 risulterebbero quelli chiusi. Se sono state chiuse 75 scuole, sono state chiuse. Adesso non so per quali ragioni, evidentemente la ASL, il Dipartimento di Prevenzione e Protezione della ASL competente, ha riscontrato numerosi casi e ha ritenuto necessario provvedere alla chiusura per isolare subito i focolai. Invece nella maggior parte delle situazioni, appunto, su 400 casi sono 75 le scuole chiuse, quindi 400 meno 75 che fa 325, mi viene da pensare che siano casi isolati, in cui naturalmente non si chiude la scuola, si può tutt'al più mettere in quarantena la classe osservo che non è neanche detto che si metta in quarantena tutta la classe, ripeto, è l'ASL che decide, certo. Ma se i contatti che risulteranno saranno stati magari soltanto tra un alunno e quelli vicini a lui, potrebbe benissimo decidere di mettere in quarantena solo quello. Ripeto, certo. È una decisione di tipo prettamente sanitario che la ASL compie all'esito di quelle che si chiamano indagini epidemiologiche. Bene, la ringrazio ancora tanto, professor Antonello Giannelli, ricordo presidente dell'Associazione Presidi Italiani, e anche che domani è attesa questa manifestazione a Roma del Comitato Priorità alla Scuola, alla quale aderiranno i sindacati della scuola, perché dicono una scuola deve garantire sicurezza, presenza e continuità. Insomma, l'avevano già annunciata giorni fa. Grazie Preside Giannelli, grazie e buon lavoro. Buona serata a tutti, grazie altrettanto. Piccola pausa di riflessione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le trovate qui, ve le racconto io tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Roberta Giordano sempre con voi. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, numero per i WhatsApp, dove diversi ascoltatori ricordano la polemica sui festeggiamenti a Napoli per la Coppa Italia, tutti senza mascherina in piazza. Anche un altro ascoltatore: mi dispiace, sarà un luogo comune, ma sentire che i napoletani sono ligi alle regole dopo le immagini della Movida, eccetera, eccetera. Insomma, d'accordo, è probabilmente un pochino di anarchia. C'è, però per il momento i numeri sono ancora contenuti. Avete sentito il sindaco De Magistris, che comunque dice che a Napoli cittadine e cittadini nella maggior parte si comportano come si deve. A proposito dei casi di coronavirus, notizia di adesso: negli Stati Uniti superati i 7 milioni di casi. 7 milioni di casi, mentre in Francia, per quanto riguarda l'Europa, in una sola giornata oggi 15.800 casi, nuovi casi di coronavirus. Ieri erano stati 16.000. Come se non bastasse, oggi questo attacco a Parigi con 4 feriti vicino alla sede del giornale Charlie Hebdo, dove c'era stato quasi 6 anni fa un attacco simile. Ci colleghiamo con Parigi, quindi, con Danilo Ceccarelli. Caro Danilo. Buonasera, sì, buonasera. Ci racconti un po', mi pare che siano state fermate per ora 7 persone, 7 uomini e soprattutto questo 18enne pakistano che sarebbe l'autore di questo attacco? Esattamente, e proprio poco fa il ministro dell'interno Gérald Darmanin è intervenuto ai microfoni di France 2 e ha confermato che si tratta di un atto di terrorismo islamista. È un nuovo attacco sanguinoso al nostro paese, ha detto Darmanin, quindi non ci sono più dubbi, si tratta di un attentato. Darmanin ha anche fatto, diciamo, un mea culpa, se vogliamo, perché ha riconosciuto il fatto che non c'era un livello di sicurezza adeguato. Ricordo che l'attentato è avvenuto davanti alla ex sede di Charlie Hebdo, dove nel 2015, 5 anni fa, ci fu il primo attentato che poi diede il via a una stagione sanguinosa che la Francia ricorda molto bene. Come giustamente dicevi, c'è stato un fermo, il fermo di un principale sospetto, un ragazzo di 18 anni pakistano. Quasi in contemporanea, sempre nel quartiere, è stato fermato un altro uomo, un 33enne algerino, e in serata sono stati fermati altri 8 uomini in una baldia a nord di Parigi. Quindi sono in tutto una decina, insomma, 10 uomini che sono stati fermati. Senti, è stata trovata anche l'arma di questo attacco, una mannaia? Esattamente, è stata trovata una mannaia non lontano dal luogo dell'attentato, dove ricordo che in cui sono rimaste ferite 2 persone, un uomo e una donna, che erano dipendenti di una società di produzione televisiva. Quindi una sono società... due feriti, sono due. Esattamente. In modo grave, stata... Danilo? In modo molto grave, ma non sono in pericolo di vita. C'è stata molto confusione inizialmente sulle notizie che sono state riportate dai media francesi. Inizialmente si parlava di 2, 3, poi 4, alla fine sono 2 persone. Senti, ma comunque pare, almeno dalle notizie che si hanno per ora, Danilo, che questo 18enne, che avrebbe anche ammesso la responsabilità in questo attacco, non era un radicalizzato, come si dice, cioè uno che già era noto perché integralista musulmano. Esattamente, era conosciuto dalle forze dell'ordine perché era stato fermato a giugno con un'arma bianca, secondo quanto riportato dalla procura, molto probabilmente un cacciavite, ma non aveva mai dato segni di radicalizzazione.

E così, dopo appena 2 settimane dall'inizio delle lezioni, già l'82% delle scuole riporta studenti in quarantena. La preside ci comunica che un bambino è positivo. Mia figlia intanto da ieri ha la febbre alta e dobbiamo autoisolarci per 14 giorni a meno che ci liberi un tampone negativo. La classe di mia figlia resta aperta, mentre io cerco di prenotare un tampone. Thank you for calling 119. We are currently experiencing extremely high call volume. Dopo una settimana attaccata al sito della sanità, trovo un appuntamento a 140 km di distanza tra 1 mese e 10 giorni. Il sistema di tracciamento presentato da Johnson come all'avanguardia mondiale si rivela un fiasco. Mi dispiace, ma al momento non abbiamo nessun kit di tamponi da fare a casa, nessun appuntamento nella sua zona, capiamo la sua frustrazione. Con tamponi che coprono solo 1/4 delle richieste, Covid è fuori controllo e Londra ora ha 6 mesi di tempo per difendersi dal virus e da un secondo lockdown totale che minaccia vite quanto la vacillante economia della metropoli ed il suo dinamismo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one horse open sleigh. E voi direte, c'è poco da dire, perché caro Paolo Corazzone di Trebi Meteo, esagerato, mi sembra un ci siamo, ci siamo, ci siamo, da, dal tempo che vedo fuori ci siamo, è quasi Natale. Beh, guarda, diciamo la verità. Comunque sono dei paesaggi montani al nord delle Alpi che hanno già visto la prima imbiancata di stagione, quindi volendo ti posso anche dare ragione. Sì, insomma, avevamo detto ieri. Vedo anche, scusa Paolo, vedo sì. Anche che a causa della nevicata in questo momento in corso è stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo lungo la strada statale 27 a monte del comune di Saint-Rémy-en-Bosse al confine tra Valle d'Aosta e Vallese in Svizzera, quindi qui la neve che c'erano quanti gradi 2 giorni fa? Siamo a settembre. Sì, capito, sì, c'è stato un crollo di temperature, tra l'altro c'è anche parecchio vento, quindi sono proprio bufere di neve quelle in quota. Fatto sta che insomma è arrivato l'autunno, ieri sera avevamo preannunciato questa forte perturbazione e non è mica finita, perché nel fine settimana porterà i suoi effetti principali al centro-sud, dove già oggi abbiamo avuto dei temporali forti. Il centro-sud continuerà a essere bersagliato da acquazzoni temporali e tra l'altro domani con un vento davvero bestiale sulle isole maggiori, la Sardegna sfiorerà i 120-130 all'ora di maestrale, vento forte anche nelle regioni settentrionali, insomma davvero l'autunno ci mostra la sua faccia peggiore, così di punto in bianco. Però ti dirò anche che alcune zone dell'Italia vedranno nel weekend un miglioramento, il nord ad esempio tornerà a vedere il sole, con il vento ma con il sole. Però cara mia, ormai temperature da pieno autunno, infatti domenica mattina rischiamo di fare 5-6 gradi di minima. Veramente. In molte città del nord, figurati te. Non c'è qualcuno che esulta dall'altra parte, Filippo Reggi, anche Alessandro Schirano, sono degli orsi polari, dei trichechi, dei pinguini come te, insomma. Io mi unisco a loro, bah, altro. Mi sento molto sola, ecco, vorrei qualche ascoltatore. Ultima cosa, sì. Dilla pure. Rimonta l'alta pressione, quindi in settimana poi torneremo ad avere giornate più piacevoli, anche come temperature, risaliranno un pochettino. Non 45 gradi? Ci scordiamo ormai, però appunto avremo una settimana più tranquilla, visto che appunto purtroppo le prossime 48 ore ne vedremo ancora di tutti i colori. Ecco, settimana prossima possiamo tirare un sospiro di sollievo. Già da lunedì siamo sicuri? Sì, già da lunedì, ultimi piovaschi al sud dal lunedì, poi martedì migliora anche lì e ci facciamo 5-6 giorni tranquilli a quel punto, dai. Garantisce Paolo Corazzone di Trebi Meteo, mi raccomando, buon tempo a te comunque sia, che sia. Grazie, però. Buon tempo a tutti. Grazie, ciao Paolo Corazzone. Ratta con la folgore, torno poi a aggiornarvi alle 22. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.